La scoperta della libertà, la lotta dell'essere umano contro l'autorità, di Rose Wilder. Stampato e caricato su internet dalla Freedom School Library, The John Day Company, New York. Traduzione di Francesca Grandi per la Scuola delle Donne. Pochi uomini dall'inizio dei tempi hanno saputo da sempre che l'umanità è libera. Pochi conoscono questo fatto. Per almeno 6.000 anni la maggioranza ha generalmente creduto in divinità pagane. Un dio pagano, comunque lo si chiami, è secondo me un'autorità che controlla l'energia, gli atti e quindi il destino di tutti gli individui. La visione pagana dell'universo è che esso è statico, immobile, limitato e controllato da un'autorità. La visione pagana dell'uomo è che tutti gli individui sono, e per loro natura dovrebbero e devono essere controllati da un'autorità esterna a loro. Tutti hanno questa convinzione quando sono piccoli. Un pulcino può graffiare non appena si asciuga dal guscio e un pesce che esce dall'uovo può nuotare, ma un bambino deve essere sculacciato prima di poter respirare e poi non può controllare la poca energia che ha. Per molto tempo si prenderà calci negli occhi quando sta solo cercando di assaggiare le dita dei piedi per scoprire cosa sono. Ha fame e non può procurarsi il cibo. È a disagio e non può girarsi. Il cibo, il calore, il comfort, la pulizia, tutto ciò che vuole e di cui ha bisogno provengono da un potere esterno a lui, enormemente più forte di lui. E questo potere controlla effettivamente le condizioni della sua vita. Non controlla la sua energia. Il bimbo. Avete mai provato a fermare un bambino che piange quando vuole solo piangere? Vuole cibo e noi lo nutriamo. Cerca di sollevarsi e noi lo solleviamo. E quando questo grande potere esterno a lui coincide con la sua energia e fa che ciò che lui vuole fare, deve sembrargli che sia lui stesso a controllare la sua energia. Invece, quando fa ciò che lui non vuole, sente e capisce di essere impotente. Se un bambino fosse in grado di controllare la sua energia nel pensare e nel parlare, qualsiasi bambino direbbe che l'esperienza dimostra l'esistenza di un grande potere che controlla i bambini. Ecco, gli esseri umani non rimangono bambini per tutta la vita, crescono. Arriva un momento in cui ogni essere umano normale è un essere umano responsabile. La sua energia crea una parte dell'intero mondo umano del suo tempo è libero, è autocontrollato e responsabile, perché genera la sua energia e la controlla, e nessun altro al posto suo può controllarla. Tuttavia, durante circa 6.000 anni di storia del vecchio mondo, la maggioranza degli esseri umani ha creduto che un'autorità la controllasse. In tutto questo tempo, le energie umane non hanno mai lavorato in modo sufficientemente efficiente per ottenere da questa terra un approvvigionamento alimentare affidabile. 2. Il comunismo. Molti tipi di insetti e alcuni animali sembrano in realtà essere controllati da un'autorità esterna a loro stessi. Un'ape, per esempio, si comporta come una cellula in un corpo umano. Un'ape apparentemente non ha desideri, non fa scelte, una volontà di massa sembra controllarla. Un'ape viene spietatamente esaurita, scartata, sostituita da un'altra per essere consumata nello stesso lavoro immutabile per lo sciame, proprio come le cellule vengono consumate e sostituite. Sembra che un'ape non abbia una vita individuale, è lo sciame la creatura vivente. L'approccio umano più vicino allo sciame di api è il comunismo. Alcuni sociologi affermano che la società è iniziata in un comunismo selvaggio e si è sviluppata attraverso la barbarie fino alla civiltà. Altri sostengono che la società raggiungerà la sua perfezione finale in un futuro comunismo mondiale. Pensare alla società umana come a un organismo che si sviluppa, progredisce o retrocede significa pensare come un'ape, se un'ape pensa. È pensare come pensa un pagano. Nel mondo umano non esiste un'entità se non la singola persona, non c'è forza se non l'energia individuale. Nella vita umana vera e propria, l'unica società reale è il contatto che si crea tra persone viventi che si incontrano. Da quando la società ha iniziato ad avere un'esistenza reale, esiste quando un ragazzo incontra una ragazza, quando la signora Jones telefona alla signora Smith, quando Robinson compra un sigaro, quando un automobilista si ferma a fare benzina, quando un politico dà la mancia a un fattorino, o quando incontra un deputato, e quando il deputato vota una legge, o quando il postino consegna la posta, e quando i capi del lavoro discutono di uno sciopero, o la modista porta un altro cappello, e il dentista dice: apri di più, per favore. I rapporti umani sono così infinitamente numerosi e variano ogni momento che nessuna mente umana può davvero comprenderli tutti. Chiamare tutte queste relazioni società e poi discutere del progresso, del benessere della società come se esistesse come uno sciame di api significa semplicemente fuggire dalla realtà al paese delle fate. Nessuno sa o può ipotizzare in modo sensato come o quando o dove sia iniziata la vita umana. Se è iniziata nel comunismo, sta iniziando proprio adesso. Molti gruppi di persone di ogni tipo vivono in gruppi comunisti. Gruppi di comunisti americani hanno da sempre vissuto negli Stati Uniti. La prima cosa che gli intellettuali europei hanno fatto quando le 13 colonie si sono liberate dall'Inghilterra è stato quello di stabilire forme di comunismo qua. Mentre il New England rifioriva, amici di Emerson hanno creato il bocciolo comunista di Brook Farm. Upton Sinclair, recentemente quasi eletto governatore della California, si è fatto conoscere in tutto il mondo come rivoluzionario, fondando l'insediamento comunista di Helicon Hall, nel New Jersey. Gli indiani nativi d'America erano comunisti e a quanto pare lo erano anche i costruttori di tumuli. Sparta fu un esempio barbaro di comunismo. Plutarco descrive così gli Spartani. La loro disciplina, dice, continua anche dopo che sono diventati uomini adulti. A nessuno è permesso vivere secondo il proprio gusto, ma la città è una sorta di accampamento in cui ogni uomo ha la sua parte di provviste di affari da sbrigare. Licurgo allevò i suoi cittadini in modo tale che non volessero né potessero vivere da soli, dovevano diventare un tutt'uno con il bene pubblico. E raggruppandosi come api intorno al loro comandante, essere portati e portate dallo zelo e dallo spirito pubblico ad essere quasi completamente fuori dalla propria necessità individuale. Ed è quel quasi la differenza sostanziale tra un uomo e un'ape, perché l'ape è completamente fuori dalle sue necessità individuali. Così gli Spartani credevano era Licurgo. Nella storia Licurgo è una leggenda. La leggenda narra che, come un'ape, riversò tutta la sua energia vitale nel bene pubblico finché, invecchiando, si tolse la vita per porre fine a un'esistenza che non aveva più valore. Per 500 anni gli Spartani vissero in una comune immutabile. Il re Agis IV cercò di innalzare il tenore di vita e gli Spartani lo uccisero. Continuarono a vivere come cellule di Sparta fino a quando i greci, meno comunisti, li sconfissero in guerra e distrussero la comune. 20 anni fa, i Dukaghini delle Alpi Dinariche vivevano nella stessa obbedienza alla loro legge dell'Ek. Ho cercato per ore di convincere alcuni di loro che una persona può possedere una casa. Una donna del villaggio, pericolosamente radicale, chiedeva una casa. Aveva aiutato il marito a costruirla. Ora era una vedova senza figli, ma voleva tenere quella casa. Era una casa normale, una piccola casupola dai muri e dai tetti di pietra, senza pavimento, né finestre, né camino. Ostinatamente antisociale, lei ripeteva: con queste mani, le mie mani, ho costruito le mura, con le mie mani ho posato le pietre del tetto, è la mia casa, io voglio la mia casa. Gli abitanti del villaggio dissero: è una follia, uno spirito delle rocce non umano è entrato in lei. Erano intelligenti. Il mio appello per la donna li stupì, ma riflettendo hanno prodotto la maggior parte degli argomenti validi per il comunismo. Uguaglianza economica, sicurezza economica, ordine sociale. Ho detto che in America una persona possiede una casa. Non potevano crederci. Ammiravano l'America, avevano sentito parlare delle sue meraviglie. Durante l'ultima guerra mondiale avevano visto con i loro occhi gli aerei. Mi interrogarono in modo accorto e io mi lasciai scappare di parlare di tasse e dovetti ammettere che un americano paga alla tribù per il possesso di una casa. E questo sembrava ammettere che la tribù americana è proprietaria della casa, non il singolo individuo. Ero stata sconfitta. La loro alta opinione del mio paese era stata ristabilita. Non riuscivano a immaginare che potessero esistere sicurezza, ordine o giustizia tra uomini e donne che non fossero controllate da un'autorità intangibile, che non poteva permettere a un individuo di possedere una casa. Allo stesso modo Rousseau non poteva immaginare alcuna civiltà se l'autorità non controllava gli individui. 2500 anni dopo Sparta, tutti quei brillanti intellettuali europei si battevano per i diritti dell'uomo e si aspettavano che i diritti umani avrebbero distrutto la civiltà. Non riuscivano a immaginare nessun altro uomo libero se non il nobile uomo rosso, non istruito, nudo e solitario nelle terre selvagge americane. E non si preoccuparono di sapere che gli indiani d'America, anche se nobili e nudi, erano comunisti. Nel 1776 questi pensatori francesi avevano le menti più libere d'Europa. Non potevano immaginare che l'esercizio dei diritti umani naturali potesse creare un nuovo tipo di civiltà. Non riuscivano a immaginare diritti umani effettivi, davano per scontato che un'autorità dovesse controllare gli individui. Questo falso presupposto è alla base di tutto il pensiero del vecchio mondo, per tutta la sua storia fino ai giorni nostri, e alla base anche di gran parte del pensiero del nuovo mondo. Questa illusione ha prevalso così a lungo e attira ancora così tante menti oneste a fuggire dai fatti perché sembra risolvere il problema umano. Il problema è reale, è il problema di controllare le energie combinate di molti individui. Gli individui devono combinare le loro energie per sopravvivere su questo pianeta. Le loro energie combinate devono lavorare sotto un certo controllo. La domanda è che cosa controlla queste energie? La risposta del vecchio mondo è l'autorità. Questa risposta è la base della vita umana nel vecchio mondo. Nessun pensatore del vecchio mondo l'ha mai messa in discussione. La domanda che ha sempre impegnato le menti del vecchio mondo è quale autorità? Per trovare l'autorità, le menti degli uomini hanno lottato per migliaia di anni. Per trovarla, gli uomini attivi, secolo dopo secolo, si sono rivoltati contro i loro governi, hanno ucciso i loro governanti, si sono massacrati a milioni e hanno istituito una forma dopo l'altra, ogni forma immaginabile di autorità vivente. Da Licurgo a Lenin, i comunisti rifiutano ogni forma di autorità umana, ma alla domanda quale autorità controlla gli esseri umani, il comunista onesto risponde: nessun uomo vivente, nessun re, nessuno zar, nessun despota, nessun dittatore, nessuna maggioranza, nessun gruppo, nessuna classe. Un comunista dà questa risposta perché riconosce un fatto, cioè la fratellanza umana. Dice veramente che tutti gli uomini sono uniti in uno sforzo comune per sopravvivere su questa terra. Tutti gli uomini condividono una comune necessità umana, un comune obiettivo umano. Tutti gli uomini hanno ugualmente diritto alla vita. E quindi a soddisfare le necessità della vita. Ma a partire da questo punto, il comunista ragiona sull'antico presupposto pagano che una qualche autorità controlli tutti gli uomini. Non mette in discussione questa superstizione pagana, la dà per scontata. Il suo ragionamento quindi continua. Poiché tutti gli uomini sono umanamente uguali, nessun uomo è un'autorità che controlla altri uomini. Se questa autorità non è un uomo vivente, deve essere un'autorità sovrumana, intangibile. E per scoprire cos'è questa autorità, osservate come si comportano gli uomini. Il loro primo sforzo è quello di procurarsi cibo, vestiti e riparo. È la necessità economica che li controlla. Ecco la fallacia che deriva dalla credenza superstiziosa nell'autorità. Un uomo nudo e solo nel bosco può correre in cerchio fino a morire di stanchezza, oppure può costruire un riparo di rami, uccidere e mangiare un coniglio e confezionare degli indumenti con le sue pelli. Storicamente gli uomini non hanno corso in cerchio e non sono morti, sono sopravvissuti. Il fatto è che la vita umana è una lotta tra l'energia dell'uomo che gli controlla e le energie non umane del tempo, degli alberi e dei conigli. Ma il comunista cerca l'autorità che controlla gli uomini e dando per scontato che l'uomo non controlla se stesso, allora l'autorità che lo controlla deve essere La situazione creata dalla sommatoria degli elementi, alberi, conigli e tempo atmosferico, cioè è il cacciatore controllato da ciò che caccia. Una donna non controlla la sua cucina gas, ma è la cucina gas che controlla lei. Vi risuona? Poiché il comunista non sa che gli individui si controllano da soli, li vede come cellule della società che, secondo lui, ha un grande spirito che per l'individuo è ciò che lo sciame è per l'ape. Per quanto ne so, solo gli indiani d'America chiamavano questa autorità intangibile grande spirito. I selvaggi la chiamavano tabù, gli spartani la chiamavano Sparta, i miei amici Dukagin la chiamavano legge di Lec, molti gruppi di comunisti che vivono in questi stati la chiamano Dio. Marx la chiamava volontà delle masse e stato proletario. I comunisti di questo paese chiamano la loro autorità linea del partito e vivono a Mosca. In teoria, il comunismo è il totale abbandono dell'individuo alla volontà di questa autorità intangibile che ovviamente è sempre bene. È sempre il bene. La teoria e la pratica del comunismo sono vecchie come la storia. Persistono perché la teoria è in parte basata sui fatti, cioè riconosce l'uguaglianza e la fratellanza tra esseri umani. In pratica, nessuno sforzo per far funzionare questa teoria ha mai permesso all'energia umana di funzionare efficacemente perché la teoria non riconosce il fatto che gli individui controllano la propria energia. Il comunismo riesce a controllare le energie umane combinate perché gli individui controllano le loro energie in accordo con la loro visione, vera o falsa che sia, dell'universo, della realtà, di Dio, e se credono che un'autorità intangibile li controlli, agiscono come se tale autorità effettivamente li controllasse. Se non credono in questo, non tentano la via del comunismo. Tutta la storia dimostra che il comunismo è un modo di vivere fattibile. Gli uomini hanno vissuto e vivono nel comunismo ad ogni livello culturale e ad ogni livello economico mai raggiunto nel vecchio mondo. Per vivere nel comunismo è necessario solo che un certo numero di uomini e donne creda a due fatti, uno vero e uno falso, cioè che tutti gli uomini sono uguali e fratelli e che un'autorità intangibile controlla gli individui. 3. Le autorità viventi. La stragrande maggioranza degli esseri umani sulla Terra crede oggi che un'autorità superumana controlli gli esseri umani. Gli italiani chiamano questo dio pagano Italia immortale, i tedeschi lo chiamano razza tedesca, i comunisti iniziano a credere che la storia sia il suo nome, che la storia non sia un semplice resoconto degli atti degli uomini, ma un potere che controlla gli atti degli uomini. Il dio ha molti nomi, società, la società è responsabile, la società deve provvedere, rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale crea il sistema capitalistico, macchine. L'uomo è schiavo delle macchine, questa è una guerra di macchine. Alcuni americani lamentano la morte del Dio che ha creato gli Stati Uniti e che un tempo rendeva gli americani forti e autonomi. Il suo nome è Frontiera. Ma l'esperienza contraddice questa superstizione pagana. Qualunque sia il nome dell'autorità intangibile, essa non può essere vista né sentita, né annusata, né udita. Quando un uomo trova il coraggio di agire contro o senza il suo controllo, essa non lo colpisce a morte, non fa nulla. Da questa esperienza, il credente raramente conclude che il suo Dio non esiste. Si limita a cambiare il suo nome o la sua idea di come funziona, oppure suppone che controlli tutti tranne lui stesso. Fin dall'inizio della storia, gli uomini e le donne del vecchio mondo non hanno mai dubitato che una qualche autorità li controlli. Ma l'esperienza ordinaria rende difficile credere che questo potere sovrumano sia del tutto intangibile. La maggior parte degli esseri umani ha creduto che essa creasse un tipo di uomo superiore per agire come suo agente. Oggi i giapponesi credono che il loro Mikado sia un dio vivente, i tibetani credono che Dio si incarni nel loro grande lama, i faraoni d'Egitto e gli imperatori di Roma erano ritenuti divinità. Fino al 1911 l'imperatrice della Cina era sacra. Nel 1776 tutti gli europei continentali e i discendenti degli europei che vivevano in Sud America e nella maggior parte del Nord America credevano che un re fosse l'agente di Dio sulla terra, e che governasse gli uomini inferiori in base a tale diritto divino. Dopo la Prima Guerra Mondiale, tutti gli europei continentali, tranne i francesi, obbedivano ai re e continuavano a credere che chiunque avesse un'ascendenza reale, anche se storpio, malato, imbecille o pazzo, fosse, per nascita e natura, un essere umano superiore. Chiunque creda che l'autorità controlli gli esseri umani e non creda che questa autorità superumana sia del tutto intangibile, deve credere che essa risieda in pochi uomini viventi, la cui natura è superiore a quella della maggior parte degli altri uomini. Ad eccezione dei comunisti, gli uomini del vecchio mondo hanno sempre creduto e credono tuttora che un'autorità sovrumana conferisca ad alcuni uomini, per nascita, razza, colore della pelle o per un atto diretto di Dio su un individuo, una natura superiore e il diritto di controllare i loro inferiori. Pertanto, obbediscono a questi esseri che si suppone siano superiori, che sono il governo. Quando e dove un gran numero di persone crede che il governo li controlli, rompe sempre la routine immutabile del comunismo. Le loro energie lavorano un po' per migliorare le loro condizioni di vita. Per esempio, durante una sessantina di secoli, l'energia umana, che aveva già la ruota, ha portato un carro su due ruote e ha attaccato dei coltelli a queste ruote per uccidere gli uomini. Dopo un periodo in cui ha quasi perso la ruota, gli uomini hanno messo un carro su quattro ruote. All'epoca di George Washington l'energia umana aveva creato una carrozza intagliata e dorata, sospesa da cinghie di cuoio sopra quattro ruote ferrate. Un altro esempio. Nell'antica Grecia, e forse anche prima, gli uomini conoscevano il principio della macchina a vapore. I greci si diffusero in tutto il mondo conosciuto dopo la conquista dei Macedoni. Eppure oggi, sul Tigri e sull'Eufrate, gli uomini remano ancora su tronchi scavati dal fuoco, come facevano gli indiani d'America, o vanno alla deriva lungo questi fiumi su ciotole ancora più primitive di pelle di quercia disegnate su cesti. Dopo aver viaggiato a valle, tornano indietro di 1.000 miglia, come gli uomini delle barche piatte un secolo fa tornavano a piedi da New Orleans a Pittsburgh. In altri luoghi, durante 40 secoli, gli uomini costruirono imbarcazioni con vele. Oltre alle vele, i fenici usavano file di remi. I romani usavano due o tre banchi di remi con uno schiavo incatenato a ciascun remo. Grazie ai sorveglianti che usavano le fruste, il capitano aveva così un certo controllo sulla direzione e sulla velocità della barca. Ma questo progresso andò perduto. Colombo navigava su barche che dipendevano completamente dai venti. Nessuno conosce il futuro. E gli uomini che portano fardelli sulle spalle potrebbero non immaginare un carro. Ma di certo gli uomini hanno sempre voluto mangiare a sufficienza. Eppure, per 6.000 anni, la maggior parte degli uomini ha avuto fame. Molti di loro sono morti di fame. La fame è normale per quasi tutti gli asiatici e gli africani, e lo è sempre stata. Le classi lavoratrici europee erano affamate fino a meno di un secolo fa. Solo 3 generazioni di europei hanno mangiato abbastanza zuppa, pane, formaggio, spaghetti. Non hanno mai avuto abbastanza carne, burro, latte, verdura e frutta. Ma nessun intero villaggio di europei occidentali è morto di fame dal 1848. Le carestie sono continuate come prima in Africa e in Asia. Normalmente, nella maggior parte di queste terre, un lavoratore offre 16 ore di lavoro, letteralmente massacrante, per una ciotola di riso. Ogni mattina, nella pacifica Shanghai, resa prospera dagli insediamenti europei, i poliziotti raccoglievano dalle strade i corpi di uomini e donne morti di fame durante la notte. Era un lavoro di routine. Quando gli uomini cercano di far funzionare l'energia e questa non funziona, non funziona perché non la stanno usando secondo la sua natura. Un motore a benzina non funzionerà mai con l'acqua, perché non è nella natura del vapore esplodere quando una scintilla lo tocca. Quando per 6.000 anni l'energia umana non funziona abbastanza bene da ottenere da questa terra abbastanza cibo per mantenere in vita gli esseri umani, non funziona perché gli uomini non usano la loro energia in accordo con la natura dell'energia umana. Ogni essere umano per sua natura è libero, si controlla da solo, ma nel vecchio mondo gli uomini credono che un'autorità li controlli. Non possono far funzionare la loro energia con questa convinzione perché è falsa. Per Ma non mettono in discussione questa convinzione, perché quando si sottomettono al controllo di un'autorità vivente e non riescono a procurarsi il cibo, possono sempre incolpare quell'autorità. Questo è ciò che hanno sempre fatto. La storia di ogni gruppo di uomini che abbia mai obbedito a un'autorità vivente è una storia di rivolte contro tutte le forme di quel governo. Guardate tutti i documenti disponibili di qualsiasi popolo, vissuto in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento della storia del vecchio mondo. Si ribellano al loro re e lo sostituiscono con un altro re. Si ribellano a lui e istituiscono un altro re. E col tempo si ribellano alla monarchia e istituiscono un altro tipo di autorità vivente. Per generazioni o secoli si ribellano e cambiano i governanti e poi si ribellano a quel tipo di autorità e ne istituiscono un'altra. Da Nabucodonosor a Hitler, la storia è una lunga serie di rivolte contro alcuni governanti viventi e di rivolte contro tipi di autorità viventi. Quando queste rivolte hanno successo, vengono chiamate rivoluzioni. Ma sono rivoluzioni solo nel senso che il girare di una ruota è una rivoluzione. Una rivoluzione del vecchio mondo è solo un movimento intorno a un centro mobile. Non esce mai dal cerchio. Al centro c'è la fede nell'autorità. Non più del comunismo o del nazionalsocialismo di oggi, nessun rivoluzionario del vecchio mondo ha mai messo in discussione questa credenza. Tutti danno per scontato che una qualche autorità controlli gli individui. Sostituiscono il prete con un re, il re con un'oligarchia, gli oligarchi con un despota, il despota con un'aristocrazia, gli aristocratici con una maggioranza, la maggioranza con un tiranno, il tiranno con degli oligarchi, gli oligarchi con degli aristocratici, gli aristocratici con un re. Il re con un parlamento, il parlamento con un dittatore, il dittatore con un re, il re e così via. Ci sono 6.000 anni di questo, in ogni lingua. Ogni tipo di autorità vivente immaginabile è stata sperimentata e lo è tuttora da qualche parte sulla Terra. Tutti questi tipi sono stati provati in tutte le combinazioni possibili. Il prete e il re che è prete, il re che è Dio, il re, il senato e la maggioranza, il senato e il tiranno e gli aristocratici, il re e il parlamento. Provate a pensare a una combinazione. Da qualche parte è stata provata. Nel 1920 gli albanesi hanno provato quattro quarti di re e aristocratici e un parlamento. I beduini dell'Iraq oggi combinano un tiranno e una maggioranza, l'emiro ha potere assoluto di vita e di morte, possiede tutte le proprietà, detta tutti i matrimoni, fa tutti i trattati, le incursioni e le guerre. Se prende una decisione che la tribù non approva, i suoi sudditi lo uccidono e danno il posto a un altro uomo. Anche questo funziona bene, se non fosse che i beduini non hanno abbastanza da mangiare. Nel frattempo, i pensatori, da Platone a Spengler, hanno considerato profondamente la domanda quale autorità controlla gli esseri umani? Ognuno di loro ha risposto proprio a questa domanda. Platone era un filosofo, pensava che l'autorità naturale fosse costituita da filosofi. Elaborò con mostruosi dettagli un sistema ideale, uno stato totalitario che lui chiamò Repubblica, in cui ogni impulso umano è assolutamente controllato da pochi filosofi. Spengler torna a parlare dell'autorità intangibile, dice che l'autorità è la civiltà. Spiega che una civiltà scaturisce o nasce o cova da un protoplasma umano immutabile, informe, che si aggrappa alla superficie della terra e ara, semina e raccoglie. Questa massa è l'eterno contadino. Ogni civiltà cresce dall'infanzia alla giovinezza fino alla maturità. Da adulta è la Grecia o Roma o l'Inghilterra. Poi invecchia e ha un cancro. Il cancro appare come una piccola città inosservata. Cresce, diventa una grande città, poi una metropoli. A questo punto è troppo avanzato per essere operato. Rapidamente si gonfia in una megalopoli che uccide la civiltà. Le cellule umane indifese della civiltà morente si indeboliscono sempre di più, perdendo energia e coraggio e persino desideri. La civiltà muore ed esse decadono in una massa informe, l'eterno contadino. Da questa massa nascerà un'altra civiltà che crescerà, invecchierà e morirà, come la megalopoli. Questo è il pensiero brillante ed erudito del vecchio mondo, ora, in questo momento. Questa visione della vita umana è supportata da un'analisi erudita di tutta la storia passata e da una schiera di seguaci intellettuali di Spengler. Naturalmente, qualsiasi americano che non sia un intellettuale sa che questo mondo non è abitato da gigantesche creature invisibili chiamate civiltà. Sa che gli uomini e le donne comuni, usando le loro energie, creano una civiltà e continuano a crearla ogni giorno, ogni ora, e che nient'altro che i loro sforzi costanti individuali può creare una civiltà e mantenerla in vita. Io contribuisco a creare la civiltà americana, non è lei a creare me. Io controllo il gambo di questa civiltà che è alla mia portata. Essa non controlla me. Non può nemmeno costringermi a leggere Spengler se preferisco leggere una rivista pulp. Eppure, sulla base di un ragionamento come quello di Spengler, gli uomini hanno cercato di agire fin dall'inizio del tempo di cui si abbia notizia. Ed è in base a questo ragionamento che ancora oggi la maggior parte degli abitanti di questa terra sta cercando di agire, proprio in questo momento. Non mettono in discussione la loro infantile convinzione che un'autorità controlli tutti gli esseri umani. Gli egiziani obbedivano ai faraoni, i loro dei viventi. Ora i giapponesi obbediscono al loro Mikado. Alessandro Magno era un despota militare, lo era anche Napoleone, lo è anche Hitler. 27 secoli fa Licurgo istituì una comune. 20 anni fa Lenin cercò di istituire una comune. Nabucodonosor era un monarca assoluto e lo era anche Luigi XV quando governava questo paese dal Labrador al Golfo del Messico. Gengis Khan era un tiranno e che cos'è il generale Franco? Da tempo immemorabile e ancora oggi sulla maggior parte di questa terra, gli uomini non hanno mai smesso di cercare l'autorità che controlla l'energia umana, sia che si guardi ai sudditi del faraone che obbedivano a un dio vivente, sia che si guardi ai greci ateniesi che obbedivano a una maggioranza, si vede lo stesso risultato: la gente non aveva abbastanza da mangiare. Gli egiziani costruirono le piramidi e vendettero i loro figli perché non potevano nutrirli. Gli ateniesi hanno costruito il Partenone e si recavano alle elezioni democratiche attraverso il sottile suono di lamenti provenienti dalle giare di ceramica agli angoli delle strade dove i neonati morivano. Gli amici gentili mettevano subito il neonato in una giara e la ponevano in un luogo pubblico e tornavano più volte ad ascoltare, sperando che prima che il bambino morisse, qualcuno lo prendesse, qualcuno che potesse permettersi di nutrirlo. Se gli uomini e le donne non vogliono vivere così, è un dato di fatto. L'energia umana non funziona come gli esseri umani vogliono che funzioni, sotto qualsiasi tipo di autorità che gli uomini sono in grado di immaginare o concepire. Eccovi un esempio di come funzionava un mulino o un forno nella Roma di 2000 anni fa in tutta la sua grandezza. Che razza di poveri schiavi c'erano dietro? Alcuni avevano la pelle livida dappertutto, nera e blu, altri avevano la schiena rigata dalle frustate ed erano coperti più che vestiti da stracci laceri. Alcuni avevano i loro membri nascosti solo da uno stretto panno, tutti erano così straccioni che si poteva vedere attraverso di loro tutto il corpo nudo. Alcuni erano segnati e bruciati in fronte con ferri roventi, altri non riuscivano quasi a vedere. I loro occhi e le loro facce erano così offuscati e neri di fumo, le loro palpebre tutte incavate dall'oscurità di quel luogo puzzolente, mezzi ciechi e cosparsi di farina sporca, bianca e nera. Ecco gli inglesi poco prima che Colombo salpasse. Le case in quelle che venivano chiamate città erano costruite con pietre messe insieme senza malta. I tetti erano spesso fatti di erba. I cottage non avevano altro pavimento che una pelle di toro essiccata e irrigidita. In Scozia i contadini vivevano del cibo più grossolano. Spesso mangiavano la corteccia degli alberi. Il pane era considerato una rara prelibatezza. Oltre il confine, in Inghilterra, la situazione era solo un po' migliore. Avevano il pane e il vino. Le donne inglesi gratificavano la loro curiosità rompendo il pane in frammenti e porgendoli l'una all'altra per annusarli e ridacchiare. I cottage erano costruiti di pali conficcati nel terreno, intrecciati con bargigli e coperti con scaglie di corteccia o rami di alberi. La sorte delle classi inferiori, le classi lavoratrici, per molte epoche non subì alcun miglioramento. In senso politico, erano animali preziosi solo per ciò che il loro lavoro poteva produrre. Ci si aspettava che manifestassero fedeltà al re e obbedienza alla Chiesa, ma non c'era alcuna carriera aperta per loro se non quella della tomba. Ecco gli americani, 7 anni dopo la fondazione di questa repubblica. Donne e bambini nel mese di dicembre viaggiano in una regione selvaggia tra ghiaccio e neve, passando per grandi fiumi e torrenti senza scarpe o calze e con stracci a malapena sufficienti a coprire la loro nudità, senza denaro o qualsiasi altra provvista se non quella che offre la natura selvaggia. Centinaia di persone che viaggiano per centinaia di miglia, senza sapere perché né dove, se non verso il Kentucky. La neve era profonda 1,5 metri. E le gambe nude non erano in grado di guadare i fiumi. Moses Austin, uno degli uomini più ricchi di Baltimora, aveva perso tutto nel crollo del mercato nelle terre occidentali. Una notte si rifugiò con 20 di questi viaggiatori in una capanna così piccola che dormivano ammucchiati uno sull'altro sul pavimento di terra. Cercavano di raggiungere un luogo dove poter vivere. A est non c'era lavoro, i poveri non avevano lavoro né cibo, speravano di trovare terra nell'ouest, ma gli speculatori possedevano ogni metro di terra dell'ouest. La Henderson Land Company possedeva il Kentucky e vendeva la terra a 2,5 dollari l'acro, quando, se ci fosse stato lavoro, il salario era di 25 centesimi per una giornata di 12 ore. Alla faccia del progresso in 2000 anni. E perché considerare un periodo così breve? 250.000 anni fa la gente viveva nelle caverne in Francia e in Spagna, le persone vivono ancora nelle grotte in Francia e nei Pirenei spagnoli. Le scogliere di Cincilla sono sempre state abitate, i lavoratori della ceramica di Coria vivono in buchi nelle buche del Guadalquivir, senza finestre o pavimenti, in Italia, in Grecia e in molti luoghi della Francia gli esseri umani vivono ancora sottoterra. Quando gli operatori della Croce Rossa americana si recarono nei Balcani dopo la Prima Guerra Mondiale, trovarono delle famiglie che vivevano in banchi di argilla nella città più grande del Montenegro. Rimasero inorriditi. Anch'io scrissi un articolo su quei senzatetto vittime della guerra che avrebbe dovuto strappare dollari al portafoglio americano più solido, solo che, prima di finirlo, tornai con un interprete per prestare il primo soccorso a quei miserabili rifugiati. Le mie domande compassionevoli li sconcertarono. Vivevano come avevano sempre vissuto, nelle loro case ancestrali. Non avrei dovuto sorprendermi. 65 anni fa, mia madre, Laura Ingalls, viveva in un ruscello del Minnesota. E allora non era necessario dire che suo padre era un cittadino onesto, rispettoso e di spicco della comunità. Vivere sottoterra non era niente di insolito. Meno di 60 anni fa le famiglie americane vivevano nelle capanne in tutte le praterie degli Stati Uniti.